Spazio. E belli di casa, buongiorno, benvenuti a questo nuovo episodio di Il Grande Reset qui su rantemradio.it, come tutti i venerdì mattina alle ore 7, qua, sempre gagliardi e tosti e pimpanti, anche se io sono sveglio dalle ore 4 di questa mattina. Voi direte, ah beh, ma perché hai fatto un grande lavoro di redazione, hai preparato questo meraviglioso episodio? No, semplicemente perché mi sono svegliato e poi... ieri sera, insomma, il cane con le paturnie che ha deciso di stare lì davanti a me a guardarmi tutto il tempo senza nessuna ragione, però vabbè, mi sentivo un po' agitato perché ieri sera c'è stato un partitone, ragazzi, un partitone storico, ma non è questo il programma nel quale parleremo di questo, mentre in questo episodio vi preannuncio che, diciamo, completo un po' il racconto che avevo iniziato la scorsa settimana con un capitolo specifico, però sicuramente non meno interessante, un'esperienza incredibile, diciamo insolita ma incredibile, che ho fatto tra le mille esperienze che ho fatto nella mia avventura culturale e politica all'interno della mia gioventù, un po' seguendo, insomma, quel pazzo del mio amico Riccardo che si andava a infilare in tutte quante le situazioni, un po' per una curiosità innata che mi ha sempre portato a esplorare cose che alla fine a volte sapete, si dice che la curiosità ammazza i gatti, qui in questo caso magari non ci ha ammazzato, però sono successe cose strane, ma adesso ve lo racconterò. E vi ricordo che è appena uscito Snap Architettura Imperfetta, è uscito Friendships Drive, il podcast di Marco Gualdi e i suoi amici su Elite Dangerous, questo videogame incredibile, quindi un podcast completamente verticale su quello. Tra l'altro vi ricordo che immediatamente alla fine di questa trasmissione andrà in onda una puntata di Radio Anziano e proprio la puntata di Friendship Drive, quindi insomma mattinata ricca, e poi dopo ovviamente riprenderà la programmazione standard durante l'arco della giornata. Vi ricordo anche che domenica mattina saremo in diretta io e Michela alle 8:30 con Disordinati Informati. Si sono accumulate tante cose da dire, quindi finalmente una trasmissione ricca, ricca di contenuti. Qualcuno ci chiede di ripristinare l'almanacco, quindi probabilmente lo faremo. E poi vediamo, insomma, un attimo pure i temi e le cose che abbiamo da inserire all'interno della trasmissione stessa. E vi dico anche che la prossima settimana, anche se purtroppo pensavamo il 20, ma ci sono subentrati delle questioni, tipo uno spettacolo teatrale al quale purtroppo non possiamo mancare, e ci sarà la prossima settimana lo speciale di Natale di Runtime by Night, quindi state pronti che un attimo ci organizziamo un po' tutti e definiamo quando farlo, forse giovedì sera, vediamo un attimo come organizzarci in merito a questo. E non credo ci siano altri annunci da fare se non partire ovviamente con il programma. Vieni, è tornato in città, baby. Oh sì, esclusivo! E questa è Vecchio di Bassi Maestro. Tra l'altro l'ho scoperto da non tantissimo tempo Bassi Maestro, e devo dire che nel panorama hip hop, che spesso e volentieri è contornato, costellato, insomma, diciamo di cose interessanti e anche tanta spazzatura, e insomma nel panorama lo trovo interessante, mi piace. Comunque usa un linguaggio sempre abbastanza equilibrato, per quanto sia ovviamente in un hip hop, è pulito nel modo in cui ovviamente canta, tra virgolette, è pulito nel senso senza particolari effetti, stracicamenti da voce, e anche concettualmente, insomma, è abbastanza interessante, quindi ve lo suggerisco se non l'avete mai sperimentato. Torniamo dunque al racconto, alla seconda parte del racconto dell'altra settimana, dove vi ho detto che al di là delle mie esperienze politiche più specifiche e in un contesto storico abbastanza particolare come quello nella trasformazione appunto del Partito Comunista in Partito Democratico della Sinistra, l'entrata nel movimento umanista per seguire ovviamente le vicende del mio amico Riccardo, perché insomma quello che ho cercato di raccontarvi è che al di là appunto delle mie esperienze proprio personali, quelle nelle quali sono sempre stato convinto per una ragione politica e ideologica, avevo comunque questo mio amico che a un certo punto ha cominciato a sondare un po' il mondo che gli stava intorno ed entrava praticamente in tutte le realtà che gli capitavano, un po' per necessità, un po' per curiosità, un po' perché non ci stava con la testa, e quindi praticamente io lo tampinavo, era una sorta di ombra per cercare di evitare che lui entrasse in situazioni strane, particolari, tant'è che ho fatto del tutto per non farlo entrare in Dianetics, no, per esempio, cioè lui voleva entrare proprio, c'era in fissa, c'era, mi ricordo a Piazza Vittoria a Roma c'era una delle sedi di Dianetics e quindi ovviamente lui insomma, era così intenzionato, poi ovviamente a forza di entrare e uscire da tutte queste realtà un po' a un certo punto l'ho un po' accannato e lui è entrato dentro una sorta di movimento, si chiamano movimento agnostico o gnostico, perché loro, che questi alla fine è un discorso complicato, non mi va neanche di parlarne perché alla fine era una setta fondamentalmente, però cioè io non è che c'avevo la responsabilità di questo mio amico, però diciamo che per un periodo di tempo ho cercato di assisterlo, di seguirlo, perché capivo che c'era proprio questa indole, questa necessità. Intanto salutiamo Mr. Zero, Magoslo, ho visto Capitan Keitaro e Deborah, salutiamo tutti, buongiorno ragazzi, scusate non mi sono andato prima ma ero nel mood, ero entrato nel mood del programma e ringrazio Michela che mi ha portato il caffè, grazie Michela. E praticamente appunto a un certo punto l'ho accannato e lui è ovviamente un po' entrato, e quindi al di là dell'esperienza del movimento umanista che vi ho spiegato un po' l'altra settimana, in realtà poi a un certo punto abbiamo fatto un'esperienza strana, particolare, controversa e sicuramente bizzarra, che però tutto sommato ha segnato nel breve tempo in cui abbiamo fatto parte di questa realtà, parte poi in realtà è relativo, ha segnato un po' ci ha segnato, diciamo, ha segnato un buon pezzo della nostra vita e soprattutto ci ha permesso di costruire legami a distanza di anni, era il 1990, e a distanza di anni diciamo durano ancora molto forti, molto intensi e magari ci si vede poco, però quel poco che ci si vede comunque c'è sempre questa stima, questa profonda amicizia che si è costruita all'interno di questa realtà. Era un periodo in cui io e Riccardo, questo mio amico, ci vedevamo praticamente tutti i giorni e se non ci vedevamo c'era qualcosa, no? Nel senso, ci sentivamo subito dopo pranzo, ah Riccardo che famo? Cioè, no, oggi c'ho da fa, c'era, vabbè, io dico ci avrà da fa, vabbè. La settimana, cioè dopo gli altri giorni tutto a posto, la settimana dopo, sempre di martedì, Riccardo, no, oggi c'ho da fare, scusa ma c'è da fare, c'è il martedì c'ho da fare, no, io poi ero curioso, dico, scusa che c'hai da fare, no, perché io vado a sto posto, però poi dopo non te lo dico perché tu mi prendi in giro, gli dico, no, per te, addirittura te prendo in giro, insomma mi sembra un po' un'esagerazione. Dice sì, io vado con questo gruppo dei ragazzi, andiamo in questa casa di riposo per anziani e facciamo compagnia agli anziani. Ah beh, bellissimo, cioè è una cosa incredibile, e voglio venire pure io. E alla fine lui comunque una volta, un giorno, un martedì mi ci ha portato e ci siamo dati appuntamento, mi ha presentato gli amici con i quali ovviamente interagiva di più. Ciao Marcello, ciao Barbara, che saluto anche se non mi ascoltano, ma magari mi ascolteranno in difterite, come diciamo noi, che comunque è stato il primo impatto con queste persone che sono diventate per decenni amici miei, cioè amici miei di Michela, insomma, che fanno parte un po' della nostra vita, no? E però io quando l'ho conosciuto, l'ho visto, cioè, c'erano un po' le facce state, questi sono strani, Riccardo, questi sono strani, cioè sembravano un po'. E dice no, ma guarda che bello, è una cosa bella quella che fanno. Dice sì, vabbè, entriamo dentro questa, oggi si chiamano RSA, non lo so, ma comunque in realtà era una casa di riposo per anziani, diciamo, secondo me era privata, non lo so, adesso non mi ricordo niente su questi dettagli, però è stata una giornata intera che noi abbiamo passato là dentro e praticamente che facevamo? Stavamo con le persone anziane e facevamo compagnia, chiacchieravamo con loro, li aiutavamo se dovevano fare delle cose magari un po' più semplici che non richiedevano ovviamente l'attenzione di un professionista, ed è stato bello, ragazzi, è stata un'esperienza veramente bella. Io mi ricordo due persone in particolare che mi hanno molto colpito, era un signore anziano attacco aterosclerosi avanzata, io penso Alzheimer, adesso non so. Comunque lui dimenticava velocemente un po' quello che... E anche se comunque Marcello, questo amico con... che mi ha presentato questo signore anziano che stava sul letto seduto, no? Legge questo libro su... sulle armi della Seconda Guerra Mondiale, no? I carri armati, tutte queste cose qua, un libro, un'enciclopedia della Seconda Guerra Mondiale. E lui magari si era dimenticato che la conversazione della settimana prima l'aveva già fatta, no? Quindi ricominciamo un po' da capo, diciamo, e forse anche durante la conversazione stessa ricominciamo un po' da capo. Però era un iper appassionato, proprio era, cioè, questa cosa delle, e ti raccontava, ti spiegava, ti faceva vedere i mezzi, ti raccontava tutte le caratteristiche tecniche, si ricordava tutto, una cosa incredibile, era un'enciclopedia della Seconda Guerra Mondiale. Poi probabilmente l'ha anche fatta la Seconda Guerra Mondiale, perché stiamo parlando di una persona che ci avrà avuto una settantina, ottantina d'anni nel 1990, probabilmente l'ha vista tutte e due le guerre, insomma, no? Quindi stavi lì e comunque lui con questo entusiasmo, no? E cercava di spiegarti, e tu stavi lì e tutto sommato, cioè, da una parte dicevi ma se è palle, no, potevi dire, no? Invece in realtà era interessante anche l'aspetto proprio strettamente umano anche di questa esperienza. Devo ammettere che io venivo da una famiglia che negli anni 80, quando c'è stato il boom, si è tra virgolette arricchita, cioè nel senso, comunque il mio tenore di vita era cambiato. Non voglio dire che ero iperviziato, però comunque diciamo che vedevo il mondo, lo filtravo secondo le mie idee, la mia ideologia, però poi magari non c'era un'esperienza diretta e questa cosa mi mancava, e quindi a questo punto è stato necessario fare questo tipo di esperienze, questa e tante altre che ho fatto poi in seguito anche per conto mio. E poi la seconda persona che mi ricordo e mi ricorderò per sempre era una signora anziana, ovviamente piccoletta, con questi capelli riccioluti, castano scuro, con questi occhi che sorridevano, cioè, io non so quanto lei fosse in bolla, fosse consapevole o presente, no? Però c'aveva questi occhi che sorridevano e ti sorridevano, c'aveva queste guanciotte rosse da un lieve trucco che comunque si faceva ogni mattina. Da giovane doveva essere stata una bellissima donna, e lo era anche da anziana, perché comunque si trasparva proprio questa serenità, questa bellezza, questa purezza da un certo punto di vista. E lei faceva le bambole de pezza, lei passava il giorno a fare queste bambole de pezza, gli davano tutti i materiali, e mi ricordo che me ne regalò una, e poi stava lì, sorrideva e ti spiegava, ti raccontava, anche lì tu gli facevi compagnia, stavi lì e parlavi con loro come se fossero persone della tua famiglia. Poi mi sono reso conto, io magari non lo faccio neanche con la mia famiglia, no? Però ero giovane, era una bellissima esperienza, una grandissima esperienza, e questa, il viso a tantissimi anni di distanza, ma gli occhi in particolare di questa signora, mi sono rimasti tantissimo impressi, e sono rimasto folgorato, stavo lì e ero quasi incantato ad ascoltare, a vedere come muoveva le mani su queste pezze, no? Facendo le bambole, come costruiva, come faceva, come cuciva, c'è una saggezza, una capacità nel movimento incredibile. Però poi magari non si ricordava come si chiamava, per dirvi, adesso faccio un esempio, non dico che sia così perché non me lo ricordo oggettivamente, non ricordo tutti quanti i dettagli, però era incredibile, c'era proprio questa manualità, no? nel costruire, ed era bravissima, venivano queste bambole di pezza molto belle, sorridenti, ovviamente sembravano tutte delle piccole copie di lei, poi fondamentalmente che sorrideva, stava lì e sorrideva, e uno potrebbe, se ci fosse Gualdi oggi farebbe una battuta cinica e bastarda, ma voglio dire, poi ci sono dei momenti in cui alcune cose, questi atteggiamenti magari non sono appropriati. E alla fine della giornata, quando siamo usciti, mi ricordo eravamo io, Riccardo e questo ragazzo Marcello, e con Barbara, che erano appena amici loro e poi sarebbero diventati marito e moglie, e io comunque li trovavo strani, perché avevano proprio la faccia di quelli della setta religiosa, ce l'avevano proprio la faccia di quelli della setta religiosa. In realtà erano semplicemente un po' bislacchi di loro, perché era una via di mezzo, perché erano, adesso ve lo racconto, comunque al di là di tutto, con questo atteggiamento così un po' affettato, no? Questo sbilanciamento, questo atteggiamento quasi affettuoso, no? Che a me sembrava un po' strano. Dico, vabbè, siamo conosciuti oggi, stai un po' calmo, no? Diciamo così. Poi in realtà, conoscendolo a distanza di decenni, lo so che lui è così proprio, no? Però a me mi faceva un po' strano, no? Cioè, ah, ti è piaciuta questa esperienza? Sì, ma guarda, sai, noi facciamo parte di questo gruppo, che non dirò il nome naturalmente, perché è una realtà che esiste ancora oggi. Diciamo la parte ufficiale, poi c'erano tutti i sottogruppi, e questo era un sottogruppo di questa realtà importante che esiste ancora oggi. Facciamo parte di questa realtà, ogni tanto ci incontriamo, vabbè, io c'è, poi dice a Rocca di Papa c'è questo raduno a giugno, luglio, adesso non ricordo, comunque era d'estate, finite. E io un po' rimasto un po' così scettico, no? Cioè, ah, vabbè, sì, un po' ero incuriosito, ci volevo andare, però dall'altra parte ero un po' intimorito, no? Da sta cosa. Ma non intimorito, dicevo, paura, ma intimorito di trovarmi in una situazione nella quale non mi sarei voluto trovare. E ogni tanto Riccardo per telefono diceva, ma vieni. Gli ho detto, vabbè, ma oramai non ho prenotato, non ho organizzato, perché a Rocca di Papa c'era questo albergo, che evidentemente era proprio i classici alberghi che per business, no? Quelli dove c'erano gli Odeon, dove si facevano gli incontri, le riunioni e via dicendo, e roba del genere. E niente, no, ma non lo so. Poi alla fine loro erano già lì tipo da un giorno, e io alla fine ho detto, ma sai che ti dico, ci provo, no? Allora chiamo Riccardo, che ancora non era partito, sarebbe partito la mattina, gli dico, guarda Ricca, chiedi se c'è sta ancora possibilità, vengo anch'io. E mi sono fatto accompagnare da mio padre lì, ed è iniziata un'avventura incredibile. Wen Yang, conoscete? Questa è The Others, carina. Dunque, torniamo al nostro racconto. Allora, mi soffermo un attimo, sto parlando con te, Barbara. Io lo so che tu non ascolterai mai, però poi magari ti mando il file e te l'ascolti con Marcello, perché sono convinto che voi vi farà piacere comunque sentire questo racconto. Perché tu sai che dalla nostra esperienza, non dico per merito della nostra esperienza, ma diciamo dalla nostra esperienza sono uscite tante persone da quel posto, tante, qualcuno è uscito da quel posto di vari ambiti regionali, perché questo era l'incontro nazionale di questa realtà. Però so che tu comunque in qualche maniera sei rimasta legata a questo mondo in qualche modo, e neanche tanto segretamente, lo ammetti anche, quindi io ti rispetto per questo, però tu sai come la penso, e quindi non mi devo sentire in difficoltà nel dire che quando io sono arrivato ho trovato tanto disagio, perché c'era c'erano tante persone che si vedeva che avevano dei problemi proprio dal punto di vista interrelazionale, che sono le vittime preferite di ogni organizzazione settaria. Ora io non dico che loro lo facessero intenzionalmente, lo facessero per cattiveria, lo facessero per interesse, per potere, quello che vi pare. Quello che posso dire è che si vedeva che c'era qualcosa che non andava. Si vedeva negli incontri, quelli regionali, quelli dei piccoli gruppi locali, si vedeva nei gruppi più allargati, e si vedeva ovviamente quando c'era l'incontro di tutta Italia al grande Odeon, non so se vi ricordate, insomma, che era una cosa così. E non tanto perché c'era la religione di mezzo e perché si ragionava sulla base della Bibbia, ma sul fatto che queste realtà alla fine non costruiscono non aiutano le persone a costruire un'identità sulla base dei propri presupposti, della propria coscienza, della propria capacità di ragionare, ma costruiscono tutto sulla base ideologica quasi, che è quella della Bibbia. La Bibbia dice, la Bibbia fa, si sta scritto sulla Bibbia e via dicendo. È ovvio che alla fine, indipendentemente se c'è un'intenzionalità o no, è ovvio che comunque alla fine quello che diventa uno strumento di controllo. Invece di aiutare a crescere le persone, le inglobi all'interno di un meccanismo sulla base dei principi proprio classici, standard, che il mondo di fuori è cattivo e solo noi te volemo bene. E le persone che già hanno questo diciamo disagio interiore, e già è più ovviamente questa cosa li porterà ad essere integrati sempre di più fino ad avere una dipendenza, perché poi diventa una cosa così, un po' di dipendenza all'interno di quella che è la realtà, che tu in quel momento sostituisci alla tua vita, alla tua famiglia, alla persona che ami o a quello che vuoi. E questo disagio io l'ho percepito subito. Quando sono sceso e la macchina di mio padre se n'è andata, ho subito detto perché vedevo tutti questi persone un po' pallidini, un po' tutti tremolanti, che facevano fatica a parlare, no? Con persone che gli tremava la voce quando parlavano, che si emozionavano a prescindere da tutto, e soprattutto al primo incontro che io ho fatto all'interno di questa realtà, dove praticamente eravamo una decina di persone e tutti messi a cerchio, ognuno doveva dire qualcosa. Anche questo, ritorniamo a quello che vi ho raccontato un po' con la storia del movimento umanista, è una manipolazione psicologica da un certo punto di vista. E quando io a Riccardo gli dicevo, sia in quel caso che in questo caso, Riccardo, tu permetti a persone che non hanno una competenza tecnica o scientifica o comunque un'istruzione specifica di mettere le mani sulla capoccia, secondo me è sbagliato. È ovvio che le persone più esperte e che sanno un po' manipolare le situazioni, è chiaro che comunque in qualche maniera ne possono trarre vantaggio, sanno come trarne vantaggio, e questo era un fatto. Questo per me era assolutamente un fatto. E quando sentivo queste persone che parlavano, gli tremava la voce, e l'unico momento in cui trovavano un vero conforto era quando partivano ste canzoni. È un'amicizia che non conosce frontiere, tutti che battevano le mani, si saltavano davanti, cioè raga, sembrava un film. Cioè, sapete che sembrava un film? Marcello Barbaro, io voglio bene, lo sapete, eh? Cioè, nel senso, lo so che magari negli anni non mi sono sempre comportato in maniera coerente e sono stato anche un po' stronzo, però lo sapete anche che voglio bene. Però raccontiamola sta storia, cioè, raccontiamola per davvero, no? Questi con sta cosa da Bibbia si esaltavano cantando e via dicendo, boh, e cominciavo a dire, vabbè, ma Riccardo, no, è bellissimo, Riccardo, ma che cazzo dici? Cioè, e poi dopo alla fine con ragionamento, parlandoci, ce l'ho anche portato, anche Marcello, perché secondo me poi Marcello comunque in qualche modo era attirato da questa realtà, però pure lui secondo me dentro di sé c'aveva sto campanello d'allarme, però lui era molto più vincolato, perché lui aveva dei legami all'interno, compresa Barbara, che era la donna della quale lui era innamorato, anche se ancora la cosa non si era sviluppata come si svilupperà poi negli anni, insomma, anche se Barbara dice io l'ho sempre saputo. E vabbè, questi sono cazzi loro, no, ma al di là di questo, sai, c'era questa cosa che alla fine, dopo i primi incontri che ci trovavamo lì, no, poi vabbè, c'era questa cosa che ognuno c'aveva, ogni giorno c'aveva una funzione, no? Che ne so, il giorno dovevi lavorare nella dispensa, un altro giorno dovevi lavorare nella cucina, un altro giorno dovevi sparecchiare, ci stava, però era il modo un po', come posso dire, passivo-aggressivo col quale ovviamente ti facevano fare queste cose. E se tu a un certo punto, come succederà poi nella parte finale di questa settimana incredibile che siamo stati lì, ti ribellavi, ovviamente succedevano delle cose, diciamo, un po' strane, che comunque in qualche maniera ti costringevano, no? Non ti costringevano, perché poi alla fine tu non le facevi uguali, però loro ti facevano una sorta di diciamo ripercussioni che alla fine a te non te ne fregava niente, ma per loro evidentemente ritenevano, pensavano che fossero importanti. Quindi dopo il primo incontro piccolo fra di noi, con gente che tremava la voce, che piangeva, e io feci quel famoso discorso che la mia amica Barbara e Marcello si ricorderanno sempre, no? La fiamma dell'amicizia, no? Feci un discorso tutto, e tutti gente che piava punti, cioè, che cazzo state facendo? Comunque, e c'è stato questa, alla fine c'era questo incontro nazionale, che era figo, perché poi comunque tu conoscevi persone di altre regioni, all'epoca non era così scontato, cioè tu conoscevi persone negli anni 90, persone delle altre regioni solo quando andavi in vacanza, andavi nei posti diversi da quei posti che frequentavi, non era così abituale, non c'era questa globalizzazione, questa interazione costante. Ricordiamoci che c'erano le interurbane, cioè tu spendevi soldi in più per parlare, che ne so, con un'altra città, insomma, quindi era un po' così. E quindi era figo, c'era questa esaltazione, anzi c'era proprio, ti vibrava tutto, stavi lì, conoscevi gente e parlava in modo diverso dal tuo, e c'erano i capi sotto che facevano sta cosa, che dicevano cose a tutti, battevano le mani, e poi adesso cantiamo, ciao, un'amicizia. E io mi guardavo intorno e dicevo, ricca, dove cazzo siamo finiti? Cioè, che è sta roba? Cioè, ma di che cazzo stiamo a parlare? Alla fine, devo dire, poi io sono stato in stanza con delle persone che sono diventate degli amici, cioè è incredibile, perché alla fine ci siamo trovati tutti lì, che stavamo lì, ma non dico che nessuno ci voleva sta, ma che tutti quanti avevano gli stessi dubbi, avevano tutti le stesse perplessità, no? O in qualche maniera, comunque latente dentro di loro, avevano le stesse perplessità. E allora, quando una volta, adesso io non mi ricordo se ci fosse Barbara, se lo ricorda, perché lei ci ha scritto tutto su un diario, c'ha le cronache di tutto quello che è successo in quella settimana lì, però tipo che magari quello, quando stavamo all'Odeon centrale, che c'era tutto il nazionale, c'era, no, perché la Bibbia dice, la Bibbia fa, cioè, qualcuno di noi, potevo essere stato io, come potesse essere stato Riccardo, io veramente questo non mi ricordo, abbiamo fatto una domanda che era ovviamente una domanda polemica, domanda che adesso non ricordo ovviamente, però, e questi ci hanno risposto con una cosa che non c'entrava un cazzo, e tutti a ride. Cioè, tipico meccanismo psicologico di esorcizzazione. Cioè, oddio, questo ha detto una cosa contro... Oddio. Arriva la persona che dice una qualsiasi cosa, indipendentemente da quello che dice, tutti ci attacchi disperatamente per... vaffanculo, ha detto una cazzata. E da lì in poi è iniziato uno scontro psicologico di noi che eravamo 3-4 contro loro che erano un centinaio. Di più forse, erano forse 200 persone. Adesso veramente non me lo ricordo quante persone erano in totale. Ed è stato interessante perché da quel momento in poi, quando vedevano che noi parlavavamo con altre persone che erano al di fuori della nostra cerchia, arrivava sempre qualcuno che li portava via. È anche questo meccanismo tipico proprio delle azioni più settarie possibili. E noi a un certo punto siamo messi un po' di traverso, quindi noi alla fine eravamo il gruppo rivoluzionario all'interno di questa realtà. Mi ricordo, si avvicinano dei ragazzi di Palermo, si avvicinano altre realtà, anche a persone, tra l'altro qui poi noi non ci rendevamo conto per la giovane età che ci avevamo, che magari questa cosa avrebbe anche creato dei problemi a delle persone, perché far venire dei dubbi così in maniera improvvisa a delle persone che avevano confidato tutto in quel tipo di realtà poteva essere anche pericoloso, no? Cioè, nel senso, non pericoloso, però sicuramente destabilizzante. Sicuramente il nostro è stato anche un atteggiamento forte, ma anche magari superficiale. Adesso non voglio entrare in questo aspetto, perché sarebbe, apriremmo un capitolo che non finisce mai. Però ecco, poi alla fine delle persone si erano avvicinate, si era creato questa tipo di sì, perché comunque erano tutte persone che erano interessate a quello che si faceva all'interno di questa realtà, così come ero interessato io, no? Tipo l'assistenza, la solidarietà, la compagnia agli anziani, tutto quello che volevi. Però non erano intenzionati a seguire in maniera così ideologica quello che era il discorso del gruppo. E quindi noi siamo stati isolati, poi fondamentalmente. Ci hanno dato degli incarichi scemi. A me quando mi hanno detto, mi hanno chiuso per un'ora dentro la dispensa dicendo devi mettere a posto tutta la dispensa se no non esci di qua, mi hanno fatto un favore, mi sono mangiato tutti i biscotti. Cioè a me cioè quello che si era creato era un po' una situazione. Poi loro praticamente uno degli ultimi giorni dovevano organizzare questa gita a Napoli a andare a fare non so cosa. Praticamente quindi c'era il pullman che li portava tutti a Napoli e noi non ci è stato concesso di farlo. E questa è stata la cosa più... cioè loro pensavano di farti un torto, a me in realtà è stata la cosa più bella che io abbia vissuto in quella specie di pseudo vacanza che ho fatto, perché eravamo rimasti in 4-5 e ci avevamo tutto l'albergo, e ripeto, tutto l'albergo per noi, quindi voi non potete capire per quei corridoi che cazzo abbiamo fatto, le guerre, le battaglie, le cose, i cuscini, le cuscinate, ci siamo ammazzati dai risate. Abbiamo consolidato un'amicizia bellissima che appunto dura ancora negli anni. Poi vabbè, chi è diventato complottista, chi è diventato ultra religioso, perché poi alla fine purtroppo un po' il seme c'era, no? Nel senso, poi c'è chi si è laicizzato da un certo punto di vista e chi invece un po' si è un po' infognato, diciamo così. Poi vabbè, ci sarebbero altre cose da raccontare che non racconto, ma non importa. Ed è stato divertente questa cosa, perché loro la vedevano come una punizione, noi la vedevamo come un'opportunità, voglio dire, no? Poi sono state delle cose ovviamente strettamente goliardiche che è inutile raccontare perché nel contesto non c'entrano, ma che io ancora quando ci ripenso ancora rido, perché veramente dentro l'albergo, cioè, eravamo proprio delle bestie, insomma, diciamo così. E questo mi ha lasciato veramente perplesso, perché poi questa cosa, quindi io non ricordo l'anno, forse era l'89, c'erano le elezioni europee, perché io mi ricordo che a un certo punto hanno organizzato nel weekend praticamente le spole per andare a Roma a votare, perché c'erano tipo le elezioni europee, quindi sì, doveva essere l'89, elezioni europee, perché loro ci tenevano che andavi a votare. E la cosa incredibile è, e questo l'abbiamo scoperto poi insomma parlando un po' con persone, quelli che erano in una sorta di gerarchia intermedia che facevano parte, ma non è che erano proprio iper sostenitori, insomma erano persone che stavano lì, davano una mano al meccanismo, ma insomma lo guardavano anche con un certo approccio critico, che praticamente tutta sta baradam iperreligioso alla fine avevano l'indicazione di votare Democrazia Proletaria. Old Showers, conoscete? E questa era Dismiss. Molto bella questa canzone, mi è piaciuta molto. Vado a concludere, perché poi la storia è finita fondamentalmente, quindi diciamo che la storia è finita nel senso che alla fine, come avevo detto, si erano avvicinate diverse persone da varie regioni, comunque poi alla fine abbiamo intrecciato diciamo delle relazioni anche con altre persone, quindi è stato pure divertente, insomma, tutto sommato. So che diverse persone, comprese Marcello e forse anche Barbara, non so poi quanto tempo ci ha messo Barbara, sono uscite da quella realtà, per quanto per alcuni è stato veramente un po' un trauma, io me ne rendo conto, nel senso che uscire era un po' togliere una parte importante della loro vita, era quasi un po' una piccola amputazione, perché Molti avevano fatto veramente affidamento a quella realtà, molti ci credevano veramente in buona fede a questo tipo di situazione. Forse anche il fatto di fare quel tipo di iniziative, però queste comunque sono realtà che sono ancora in circolazione, cioè non c'era niente di criminoso, nel senso come magari tante sette che diventavano veramente ipertossiche. Il problema è che la tossicità stava nel fatto che le persone in difficoltà, con problemi interrelazionali, con una incapacità di trovare il proprio posto nel mondo, che si sentivano sole, ovviamente venivano accolte all'interno di questa realtà dicendo: ah, noi siamo la tua famiglia, noi siamo la tua casa. E questo è comunque un approccio sbagliato, quando in realtà appunto realtà come queste dovrebbero aiutare le persone a costruire una struttura, un'identità, no, in qualche maniera. Magari poi, ovviamente, secondo i principi della Bibbia, perché loro erano comunque religiosi, non è che uno deve per forza criticare questo aspetto qui. Quello che criticavamo era ovviamente questa cosa così settaria, dove loro, durante questi Odeon centrali, dove ovviamente parlavano i capi, che facevano battute denigrandoci, ma non si rendevano conto che più loro avevano questo atteggiamento, più noi ovviamente rispondevamo dalla platea, e più comunque alla fine qualcuno ha acceso la lampadina, e quindi alla fine è successo quello che evidentemente sarebbe comunque successo. E però è stata un'esperienza incredibile. Allora, voglio concludere questo tipo di discorso dicendo che è stata un'esperienza che ha costruito delle amicizie che sono durate degli anni. Io ho sempre detto che nelle situazioni più strane e forse di maggiore difficoltà si costruiscono i rapporti più veri, perché vedi un po' anche il modo in cui le persone si divincolano dalle proprie difficoltà, no? Anche dalle proprie problematiche, o dai problemi che ovviamente si creano intorno. Dall'altra parte, ovviamente, c'è anche un discorso che è legato al come posso dire, a questa esperienza relativa a una realtà che tu avevi letto, avevi visto nei film, avevi visto insomma che esistevano queste cose, ma che magari non ti rendevi conto perché non ti capacitavi del fatto che esistessero veramente. E quindi l'esperienza diretta comunque in qualche maniera ha portato ad un accrescimento, ecco, da questo punto di vista, oltre a essere stato un periodo veramente veramente divertente. Intanto non capirò mai perché devi uscire qua, però va bene ragazzi. Comunque il cane abbaia e chissà. Comunque ragazzi, è finita la trasmissione. Vi ricordo, domenica mattina alle 8:30 io e Michela saremo in compagnia con voi per Disordinati Informati, per stare insieme, ovviamente un po' di informazione, un po' di musica, un po' di chiacchiere, e poi soprattutto vi ricordo che in teoria la prossima settimana, anzi no, in teoria in pratica, ma dovremo un attimo organizzarci, la prossima settimana ci sarà lo speciale natalizio di Runtime by Night. Per quanto riguarda adesso, andrà in onda subito dopo i brani musicali una puntata di Radio Anziano, e poi Starship Drive di Marco Gualdi e i suoi amici, che parleranno ovviamente dei 40 anni del videogioco Elite Dangerous, anzi Elite, poi che è diventato Elite Dangerous. Detto questo, io direi che possiamo anche salutarci. Spero che sia un inizio di fine settimana piacevole, e soprattutto che sia un weekend, insomma, dove voi possiate fare le cose che vi piacciono. Ciao a tutti e grazie!